la canzone. Muchacha, io voglio amare, tu sai perché? Questa muchacha io la voglio vicino a me. Se mi farà soffrire, se mi farà impazzire, tu soffrirai con me. Il cielo si balla, che invita a sognar. Che tutto più bello mi appare. Canzon che nell'aria compagni la dolce e bella sera vita, canzone d'amore. Somarello che tratti pian pian accompagna questa mia canzone, è pieno dal cuore. Questa muchacha io voglio amare, tu sai perché? Questa muchacha io la voglio vicino a me. Se mi farà soffrire, se mi farà impazzire, tu soffrirai con me. Il cielo si balla, l'invito a sognar. Tutto più bello mi appare. Ritornello che io canto per la donna del mio cuore. Olè!